Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. E Portogallo sia per l'atto finale dell'Europeo, CR7, Cristiano Ronaldo si sveglia e sul Galles cala il buio. Anche perché mancava uno delle due stelle, come sapete bene. Buongiorno Pierluigi Pardo. Come va? Beh, su questo avevi ragione. Un giorno o l'altro Cristiano Ronaldo si sveglia e il Portogallo si trasforma. Non ti dico. Vince la Francia. Stasera vince la Francia. Francia-Portogallo. Vince la Francia l'Europeo. Fa il divino, Pascio. Fa il divino termo. Abbiamo già indovinato tutto. Possiamo andare in vacanza fino a lunedì. È così? No, esatto. Non credo. Ma io sono in Sicilia adesso, quindi è come fosse vacanza. Ah, però. Tu stai in Sicilia, io a Milano invece, come al solito. Dove? Aspettiamo ascoltatori da tutta Italia e da tutto il mondo. 800 24 00 24 numero verde. Qui a Milano invece è stato il giorno dell'aeroplanino Vincenzo Montella, che è stato presentato dal Milan. Poi parleremo anche del fatto che c'è il pilota dell'aereo, ma adesso serve l'equipaggio. Comunque Montella. Non è affatto vero che io ho chiamato Borcavalero e né tantomeno ho parlato con il dottor Galliani, insomma con Emina, quindi è un pettegolezzo che non corrisponde al vero. Cioè noi ci siamo impegnati e quindi ogni operazione dovrà essere condivisa fra il sottoscritto e il dottor Gancikov. Non è previsto cosa succede se non ci mettiamo d'accordo, si va su un altro obiettivo, quindi è un mercato condiviso. Faccio giudice io, se mi posso permettere. Giudice lei, ma non ci siamo dimenticati ma sulla maggioranza. Ormai i documenti sono firmati, le chiedo scusa. Grazie per l'assist, quindi sarò non possiamo più tornare indietro. Non mettiamo nulla in piazza, il mercato è riservato e quindi non chiedo scusa ma non rispondo di mercato, quindi voglio dire, certamente Piazza è un giocatore importante, lo seguono molte società, vediamo. Hai capito a proposito di equipaggio, Pardo? Cioè Galliani, Gancikov, il vecchio e il nuovo di questa società, mercato a due teste e Montella giudice arbitro. Beh sì, insomma, uno scenario intrigante, poi sì. Se funzionerà questo ovviamente, qui la palla di cristallo è più difficile che il pronostico di Portogallo-Galles, nel senso che sicuramente il Milan ha una forza potenziale molto, molto importante, la valutazione del club è una valutazione alta, come ci ha raccontato Bellinazzo, parliamo di 750 milioni compresi i debiti, quindi voglio dire, l'investimento è stato molto importante e l'assicurazione che ha voluto Berlusconi è l'assicurazione di ulteriori investimenti, quindi mi sembra che i presupposti ci siano, poi è ovvio, ci sono ancora tutta una serie di punti interrogativi sulla struttura, sul pacchetto azionario, pratica sulla quindi insomma qualche dubbio c'è anche qualche dubbio tecnico, poi diciamo che rispetto a qualche anno fa il problema non solo del Milan ma di tutte quelle che stanno cercando di ricostruirsi una strada è che c'è una squadra dominante e quando la Juve ha fatto i suoi settimi posti e poi è risorta c'era un po' un vuoto in quel momento, no? E quindi è riuscita a inserirsi, a prendere quella posizione con grande forza. Certo, ci ha messo qualche stagione per ricostruirsi e ha speso anche un bel po' di denaro qualche volta avanti. Oggi la Juve però è un bello fantuffo là davanti, non è facile da mandare via, però che il Milan possa avere un potenziale non credo ci siano dubbi. Sì, da noi infatti si va avanti a colpi di voci e di domande, ma Bielsa arriverà davvero? Ma Mancini ha davvero il mal di pancia perché l'Inter a Mandorla non gli compra il consumatissimo Yaya Touré insieme a Zabaleta? Questi sono gli interrogativi che arrivano da noi. Ne aggiungo un altro, ma davvero Cassano lascerà la Sampdoria, è stato così allontanato da Ferrero? Vuoi provare a rispondere ad uno di queste? Allora, poi pure a tutte. Ma Bielsa arriverà davvero? Ieri abbiamo sentito Lotito che ha fatto il giro dei giornali. Sì. Che è ampiamente ripresa, però insomma io credo che Lotito abbia fatto tutto quello che doveva fare in questa situazione qui. Rimangono semmai gli aspetti personali di uno che fra l'altro si chiama Loco. non a caso. È un personaggio di altissimo profilo. La Lazio ha fatto un investimento importante, il contratto c'è, è depositato, insomma aspettiamo, possiamo solo aspettare, ma credo che la Lazio debba rimproverarsi poco nel caso, perché comunque insomma, se tu fai firmare il contratto a una persona e questa lo firma, poi non si presenta, se non viene, non si tu. Presenta inadempiente lui, per cui insomma, tante volte abbiamo discusso diciamo la strategia della Lazio, stavolta mi sembra invece che abbia fatto le cose bene. Per quanto riguarda Cassano, mi sembra che le parole di Ferrero di ieri siano abbastanza precise, chiare. Abbastanza chiare, quindi si va verso l'addio con stretta di mano tra gentiluomini, e la terza non me la ricordo, però la terza, ma poi ne parliamo, è la questione di Mancini, che c'è già questo questa frizione, non so se piccolo o grande, tra Mancini e la nuova proprietà cinese, che Mancini vorrebbe l'usato sicuro e molto costoso, Touré che quest'anno ha fatto una stagione onestamente da giocatore in declino, e Zavaleta, quelli dicono no, noi vogliamo giocatori giovani, e quindi contrasto. Possiamo anche aggiungere il fatto, di cui poi parleremo, cioè Messi che, come sappiamo, ha ricevuto questa pesante condanna per evasione fiscale. Oggi si scrive che il padre avrebbe incontrato Abramovic sullo yacht del magnate russo. Vediamo di capirne di più dopo. Però in Spagna ci deve tornare, anche se cambia paese, anche se va a giocare qualche altra parte, non è che perché sappiamo che la condanna di 21 mesi, adesso ovviamente ci saranno poi le richieste di appello, insomma. Sì, cioè, già ci sono. Però 21 mesi sono ancora sotto al limite del possibile carcere, però in pratica un cappellino giallo, per usare un termine calcistico. In pratica, se ci dovesse essere un ulteriore problema, a me si rischierebbe in Spagna, da quello che abbiamo letto oggi nei giornali, addirittura di finire in carcere per qualche tempo, insomma, che è abbastanza clamoroso, ovviamente, però. Però così hanno parlato i giudici. Dunque, tutti questi temi li approfondiremo tra poco, fino alle 15:30 come ogni giorno. 800 24 00 24 per intervenire. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi aspetto tutto, lo saprò solamente domani. La Germania ha cambiato sistema, ha cambiato giocatore, cambierà anche per questa partita, perché hanno squalificato e qualche infortuni. Mi aspetto a tutto, però vedremo. L'importante è qualificarsi, per loro, per noi c'è solo questo obiettivo. Questo Didier Deschamps alla vigilia del derby d'Europa, Germania-Francia-Germania, che vedremo stasera. Pardo, salutiamo insieme mister Zaccheroni? Certo, buongiorno. Insieme, 1, 2, 3. Alberto Zaccheroni, buongiorno. Buongiorno a voi, piacere di sentirvi. Venuta male, però un voto a questo europeo di cui stasera scopriamo la finale, le è piaciuto? Ma le prime partite non tanto, ma era prevedibile, perché il torneo così allargato è inevitabile che perda un pochino in qualità. Insomma, qualche partita, qualche frazione di partita non è stata esaltante, però ho visto anche tanti volti nuovi, ho visto anche qualche partita sorpresa. Insomma, tutto sommato, chi ama il calcio apprezza che questo è europeo. Insomma. Sì, niente di rivoluzionario. Sì, dispiace, niente di clamoroso, dai. Dispiace per come sono finiti, terminati i due gironi, cioè questa da una parte le migliori, dall'altra parte chiamiamo le outsider. Infatti io e Pardo ci stiamo orientando verso il sorteggione, allineandoci all'idea di Cruciani, sorteggione dopo la prima fase, no Pierluigi? Sì, ma il sorteggione può essere ancora peggio, sicuramente c'era una asimmetria di partenza in questo tabellone, in questa forma. Anche il destino, perché comunque Spagna e Inghilterra, che dovevano teoricamente vincere il loro girone, non l'hanno vinto, quindi hanno reso ancora più forte questa contraddizione tra una metà e l'altra del tabellone. E sono d'accordo, non è stato, secondo me, francamente, un europeo straordinario, lo dico, insomma, non lo so, non mi ha fatto impazzire. È bello vedere che ci sono squadre che attraverso l'organizzazione possono fare cose importanti, come ha fatto l'Islanda, come ha fatto il Galles, però insomma, francamente, partite indimenticabili ad oggi forse non ne abbiamo viste, di belle partite. Stasera è come fosse la finale, magari stasera viene poi la partita del secolo. Beh, io posso dire comunque che a me Italia-Spagna è piaciuta da morire, cioè almeno dal punto di vista della nazione italiana, non cambio idea, è stata una delle migliori esibizioni degli ultimi 25 anni da parte dell'Italia. Giocatori interessanti invece, Alberto, ha visto qualcosa? quelli che sono un pochino sulla bocca di tutti, però secondo me anche questi nuovi giocatori scoperti adesso hanno bisogno di verifiche. Certo. Hanno bisogno di verifiche nei campionati, perché in tornei di breve durata ti capita il momento di grande condizione, in quel periodo fai cose straordinarie, poi dopo conta la continuità. A me viene sempre in mente Alvaro Recoba, sì. Giocatore che 7 partite all'anno sono 21 punti, sicuri. Sì, sì. Quindi una squadra che si deve salvare si salva di sicuro con lui, perché 7 partite le vince da solo. Sì. Poi le altre partite bisogna tirarselo dietro. grandissimo talento. Io ho avuto anche la fortuna di allenarlo, come ha anche fatto bene, perché tra Coppa e il campionato fece anche 9 gol, ma la continuità non era certamente il suo forte, però un grandissimo talento. E all'europeo spesso succede questo, vediamo dei giocatori che fanno molto bene o danno l'impressione di essere veramente bravi, e poi dopo nella continuità e nei grandi club devi vincere quasi sempre, lo sappiamo tutti. Sto già pensando a Piazza, ascoltando le sue parole, sto già pensando a Piazza, che tutti lo vogliono. Io sono d'accordo con la Juve di non partecipare all'asta. Beh, questo giocatore c'era anche 2 mesi fa, era così. Sì. Perché arrivarci adesso? Arrivarci adesso? Dopo a me, per esempio, risulta che la Fiorentina ce l'avesse in mano per 8 milioni qualche tempo fa. Cose che succedono nella vita. È anche vero che poi questo tipo di manifestazioni sono anche quelle quali certi giocatori mostrano la propria caratura internazionale, anche se secondo me è vero quello che dice il mister, cioè questo è veramente un altro sport, queste competizioni. Poi in un calcio come quello di oggi, nel quale le distanze rispetto a mentalità sono più piccole tra le grandi e quelle un po' meno grandi, quindi c'è più incertezza, una competizione come questa moltiplica incertezza, per cui può capitare che il Portogallo, forse una delle peggiori campagne che ha fatto negli ultimi 20 anni tra europei e mondiali, si ritrova in finale per una serie di circostanze e di combinazioni, e quindi è proprio un'altra vita. Sì, sì, è un altro sport, lo sappiamo, si brucia tutti in un attimo. Alberto, no, poi ho visto in questo europeo, non ho visto tanto coraggio di osare, devo dire la poco, verità, poco o pochissimo. E questo ti dico che la partita ieri sera, al 45esimo, io sono venuto al mare. Dopo i primi 45 minuti passeggiato in spiaggia, perché nessuno dei due voleva osare, aspettavano i botti finali. No, aspettavano che tu andassi al mare, perché appena sei partito per andare al mare hanno fatto 2 gol in 3 minuti. A parte le battute, è vero. Beh, anche vedere l'altra sera la Germania che si traveste da Italia è stata una cosa strana. Sono curioso di vedere cosa stasera. Noi di qua e loro di là. Sì, noi di qua e loro di là. Due squadre che si guardano allo specchio, solo con le magliette diverse. E questo forse può essere anche un merito dell'Italia. Senta, ha attraversato anche se per poco il calcio cinese. Cosa succede da quelle parti? Si stanno investendo molto su indicazione del governo. Sono quasi tutti immobiliari, le squadre, le società che gestiscono le prime due divisioni, quindi quelle di A e quella di B, a parte quella dove ero io, che è statale, e Suning è quella che ha acquistato anche l'Inter. Le altre sono tutte private statali, incentivate dallo Stato, che hanno enormi vantaggi fiscali, diciamo così, no? Il presidente della Cina è un grande appassionato del calcio, vuole il mondiale 2030, vuole che la nazionale cresca, quindi vuole grandi campioni che mostrino ai cinesi come crescere, e quindi si è innescato questo meccanismo, anche questi investimenti all'estero, perché mi sembra che siano anche all'Atletico Madrid, se non sbaglio, no? Sì, sono, se non totalmente, in gran parte, sì, quindi entrati. Ecco, quindi. Ma che effetto fa vedere Milan e Inter? Che effetto le fa vedere Milan e Inter? Cioè due club che lei ha, insomma, lo scudetto col Milan, poi ha allenato anche l'Inter. Che effetto le fa vedere questa parte di storia del calcio italiano in mano a investitori stranieri che vengono da Oriente. Da appassionato e spassionale di calcio non mi piace, perché i toscani non mi garba. Non mi garba. Però se vogliamo che in Italia ritornino, nei grandi club ritornino i grandi giocatori, i migliori giocatori che sono sul mercato al momento, a questo punto mi sembra inevitabile, perché gli arabi non vengono. Sì. In Italia non vengono, girano, come ho detto un'altra volta, dalla Spagna, salgono, arrivano in Inghilterra, Francia, però da noi non vengono. Gli unici che vengono sono i cinesi, hanno tanti soldi adesso, perché effettivamente li hanno. Io ho constatato, là, insomma, li hanno. Sì. E quindi per la crescita del calcio, per la qualità del nostro calcio, sicuramente è importante, insomma, è un beneficio che abbiamo. Sì, bisogna... Bisogna mettere il cuore da parte e goderci lo spettacolo con gli occhi. Sì, perché ultimamente i grandi campioni da noi non venivano più. Una volta, io guardando, facendo 5 anni in Asia, vedo che, mi rendo conto dove vado, Uzbekistan, Tagikistan, girato tutti i paesi, hanno mangiato Serie A sempre questi, eh? Questo è sempre l'unico calcio che guardavano, era quello della Serie A. Certo, oggi purtroppo non lo seguono più. Certo. Un'ultima cosa, un'ultima considerazione che gira tutti e due, che riguarda l'Inter invece. Pare ci sia già questa frizione tra Mancini e la nuova proprietà cinese. Mancini avrebbe chiesto giocatori di grande esperienza, un Touré che a me sembra francamente sul viale del tramonto, che costa moltissimo di ingaggio. Zabaleta e i nuovi proprietari hanno detto no, siamo disposti a spendere, ma vogliamo una linea verde per ricostruire la squadra. Ha ragione Mancini ad andare sull'usato sicuro molto costoso? Lo chiedo prima a Pardo e poi chiudiamo con mister Zaccheroni. Dai, su. Alberto Zaccheroni, dimmi. Dipende dagli obiettivi. Se l'obiettivo è vincere, bisogna andare sul sicuro. Quindi sono dalla parte di Mancini. Se l'obiettivo è costruire, gettare le basi, non lo puoi fare con i vecchi. Certamente. Due o tre ci devono essere. Soprattutto è indispensabile lo zoccolo duro. Io noto sempre che le squadre, guardavo anche il Milan di quest'anno, non ha uno zoccolo duro. Ci vuole un zoccolo duro forte italiano di personalità. Avendo gestito l'Inter, Milan, la Juve, mi sono fatto questa idea che se non hai, che l'allenatore deve intervenire, ovviamente tatticamente, tecnicamente tocca all'allenatore, solo all'allenatore intervenire, però nella gestione del gruppo, nella compattezza del gruppo, l'allenatore deve intervenire solamente nello straordinario. Certo. Non ha la possibilità di poter gestire a 360 gradi il gruppo, perché c'era un'ora e mezza al giorno. Certo. Lì sono in campo, non hai il tempo, la possibilità di andare nei dettagli. E quindi è fondamentale lo zoccolo duro e possibilmente italiano. Il Milan aveva un grande zoccolo duro in momenti d'oro. Io almeno nel periodo in cui c'ero io, i Madini, Costacurta, gli Albertini funzionavano da cuscinetto, pur rispettando totalmente sempre l'allenatore, perché non si sono mai permessi in 3 anni, anche nell'intervallo magari stavamo perdendo 1-0, stava 0-0, dovevamo vincere, a me avrebbe anche fatto comodo che Paolo Maldini avesse detto dai ragazzi che ce la facciamo. Invece totale rispetto dei ruoli, in 3 anni non sono mai intervenuti in mia presenza. Però quando qualcuno non si comportava bene, secondo me dentro spogliatoio ci facevano sentire. Ci pensavano loro. Grazie Alberto. Sempre un piacere parlare con Alberto Zaccheroni. Pardo, ci fermiamo per la borsa, poi commentiamo tutto questo anche con gli ascoltatori. 800240024. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. Snai Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Convocati. Se tu quiseres vir comigo conhecer o paraíso, fecha os olhos e confia porque eu vou-te levar. E eu vou fazer contigo tudo aquilo que é preciso, porque tu mereces e és tudo menos vulgar. Agora com a outra, passando da Rafa Guerreiro, que arriva nell'area di rigore. O stacco di Ronaldo, che infila la porta e porta il Portogallo in vantaggio. Minuto 50, eccolo il fenomeno ancora di testa a sbloccare all'improvviso la semifinale. Io passavo contigo. In area c'è Nani, palla per lui, deviata, prova a staccare, Sanchez anticipato, la prende al limite, Ronaldo non calcia, poi sì, con il destro, deviata da Nani, che infila la porta, il raddoppio del Portogallo in tre minuti, prima Ronaldo, poi Nani, vola la strada di Fernando Santos, verso la finale. What? Entre nós ninguém se mette, tu hoje vens comigo, entra no meu Cadillac. Palla alla porta, Eriksen ha il fischietto in bocca e manda a Parigi il Portogallo. È in finale, Cristiano Ronaldo prima, Nani poi, dopo 12 anni, il Portogallo torna in finale, affronterà la vincente di Francia-Germania. Tra poco torneremo sull'argomento, su questo duello, questo derby tra Ronaldo e Bale che ieri sera ha vinto CR7. C'è chi mi scrive mentre tutto questo accadeva, mentre, come abbiamo scoperto, Alberto Zaccheroni passeggiava in riva al mare. C'è chi mi scrive: non capisco la vostra piaggeria nei confronti della nazionale di Conte, una delle più brutte squadre mai viste, eliminata ai quarti dopo una partita orribile, ma voi osannate tutto questo. Prandelli 4 anni fa arrivò in finale e nessuno ebbe parole di elogio. Lo scrive Gianluca. Mi sembra una visione un po' sbagliata, mi sembra un voler fare un po' i fenomeni. Non è vero innanzitutto che Pierluigi, abbiamo parlato, non abbiamo avuto parole di elogio per la nazionale di Prandelli. Ma scherzi, anzi, io ho avuto nel 2012, non lavoravo a Radio 24, quindi non c'ero tecnicamente, ma più volte in questi anni ho ricordato che poi Prandelli si è nominato la reputazione nazionale e forse anche l'immagine complessiva, secondo me, oltre i suoi demeriti, unicamente per un mondiale sbagliato, che non è mai un dettaglio quando alleni una nazionale, perché tre anni e mezzo su quattro, mi verrebbe da dire, della sua esperienza in nazionale sono stati positivi, ottimi. Sì. E noi abbiamo perso quella finale. Questo può essere anche un elemento interessante in vista della finale che sta per arrivare, anche perché secondo me siamo arrivati veramente stanchi all'ultima partita e credo che giocare la semifinale il giovedì con la finale la domenica sia veramente uno svantaggio, perché un conto è quando c'è un giorno di differenza tra le squadre, come era successo per esempio dopo la partita con la Spagna, ma hai comunque 5 giorni per recuperare e magari la tua avversaria ce l'ha 6. Ma qui giocare la finale 3 giorni dopo la semi, insomma, è complicato. Secondo me non è proprio il massimo della vita, eh? Quindi secondo me un piccolo vantaggio in questo il Portogallo ce l'avrà, perché 24 ore di riposo in più quando c'è così poco tempo per recuperare possono essere un problema. Poi lì c'era stato anche l'aspetto logistico, perché avevamo fatto Varsavia, Cracovia, la Varsavia parlando la notte a Cracovia e poi il giorno dopo allenamento del faticante, quindi Kiev, stavolta forse un po' più semplice, Marsiglia, Parigi è 50 minuti d'aereo, quindi non è un grande problema, però quando arrivi a fine torneo anche i dettagli hanno il loro peso, esatto, quei turni di riposo li abbiamo avuti prima. Su Conte nessuno credo abbia detto che abbiamo giocato un calcio sensazionale, anzi sicuramente non è stato un manifesto estetico, però io mi aspettavo di meno, cioè meglio, io mi aspettavo, avevo sensazioni positive, l'ho più volte espresse, ma insomma il sentimento comune prima di questa competizione era molto negativo. Chiaro. E invece questa squadra ha giocato bene, giocato un calcio. Io ti chiedo, ma il manifesto di bel calcio chi l'ha appeso in questo europeo? No, a me sembra, oltretutto, mi sembra oltretutto, nessuno, no? Se oltretutto. Non casi sporadici. No, e poi esiste una qualità al di là dell'organizzazione, io questo è un tema quale credo che sia giusto fare una sottolineatura, esiste una qualità anche nel calcio di rimessa e noi l'abbiamo avuta, cioè noi nella partita soprattutto contro la Spagna ma anche contro il Belgio, quella con la Spagna è stata la migliore di tutte, abbiamo giocato bene nelle ripartenze, appena avevamo un po' di spazio, questo spazio l'abbiamo usato bene, quindi non abbiamo mai avuto la forza per imporre il nostro gioco contro avversari in chiuso, infatti con Irlanda e Svezia abbiamo fatto abbastanza schifo dal punto di vista della produzione offensiva, soprattutto con l'Irlanda ma anche con la Svezia, però quando abbiamo invece trovato delle avversarie che si aprivano e ci lasciavano campo, non ci siamo limitati soltanto a difendere, abbiamo fatto del buon gioco di ripartenza. Il calcio anche quello, non è soltanto l'arrivare in porta col pallone, quindi non ho visto nulla di negativo in questa spedizione italiana se non quegli ultimi 2 rigori. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, vorrei fare appunto con voi dei fenomeni, un focus su Conte, questo grande uomo che aveva costruito un piccolo miracolo, poi arrivati i tempi supplementari l'ho visto stravolto dallo stress, non è riuscito a leggere la partita e fare quelle sostituzioni che forse ci potevano far vincere la partita. Ora io dico, se non regge lo stress a questi livelli, come potrà affrontare i mostri della Premier? E per questo io penso che abbia detto arrivederci alla nazionale. Vostro parere, grazie. No, sicuramente non è questo il motivo, insomma, ormai non è nato. No, non è che non ha detto lo stress, cioè, si può discutere la sostituzione di Zaza, perché sappiamo che è andato in rigore. Ma si sì, con senno di poi possiamo discutere alcune cose, però nel complesso che vuoi discutere, non è questione di stress, le partite le vive così, la faceva nella Juventus. Vale. E lo fa in nazionale. L'unica cosa che guardando la partita, perché poi conta quando guardi la partita, dopo siamo tutti bravi a dire Zaza non doveva entrare, dopo siamo tutti fenomeni. Io l'unica cosa che avevo in testa mentre vedevo la partita è che forse Insigne poteva entrare un po' prima, ma manca la controprova, cioè manca la controprova che un eventuale ingresso di Insigne avrebbe portato chissà che cosa. E poi c'era un motivo per il quale Insigne non è entrato, che c'erano tre giocatori in preallarme dal punto di vista fisico, che erano soprattutto Chiellini, Sturaro, oltre a Eder che chiaramente è dovuto uscire, e quindi c'era una situazione oggettivamente complicata, altrimenti io penso che Insigne sarebbe entrato sicuramente qualche minuto prima, nel primo supplementare invece che nel secondo. Insomma, dai, questo è... Ah sì, sono state fatte delle valutazioni che devi fare nel giro di decisioni che devi prendere nel giro di minuti, secondo me. Non regge lo stress, no, mi sembra una follia, francamente. Mi sembra eccessivo. No, ecco. Cioè che poi viva le partite con molta intensità, certamente, che finisca distrutto come se avesse giocato, certamente, ma non regge lo stress è un'altra cosa. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi, signore. Allora, io sono ricordato quella l'altra volta fatta dei soldi e distribuzione uguale, lasciamo stare questo. Il fatto Mancini è facile, voglio Yaya Touré, voglio Zabaleta. Ma avete visto voi la primavera dell'Inter, che giocatori che ci sono? Ma te lo segui la primavera tu? Io la seguo la primavera tutti gli anni. Sì. C'ha due terzini che non gli levi la palla neanche se gli spari. C'ha un centravanti, l'albanese che è un bel centravanti. Ma è possibile che non metta mai un giovane Mancini? Uno, ne mettesse uno all'anno magari. E la primavera dell'Inter è 3-4 anni che sta a vincere quasi tutto. Se non vince arriva secondo, un finale, semifinale. Non so se la seguite voi. Sì, sappiamo non la guardiamo tutte le domeniche, ma sappiamo come sta andando. Sta facendo molto bene la primavera dell'Inter guidata da Samadem. Non c'è il settore giovanile dell'Inter guidato da Samadem. Però da lì a prendere i giocatori e a sottoporre alla pressione di una squadra di che stiamo parlando? Io non lo so. No, ma per carità, in grande bocca al lupo la primavera dell'Inter, che è una buona primavera, come ce ne sono altre, quella pure la Lazio, pure il Torino. Allora questo ragionamento lo potresti fare. No, la Juventus, sì, ma la Juventus dice talmente tante cose che funzionano a livello di prima squadra che chiaramente non cambia. Ma con questo ragionamento allora Lazio e Torino dovrebbero rivolgersi in maniera assolutamente completa e assoluta al loro settore giovanile. Insomma, dai, mi sembra un conto è dire che i giovani sono importanti, e sono d'accordo che in Italia ci sia complessivamente poca abitudine e poco coraggio nel lanciarli. Questo è questo son, posso essere d'accordo. Ma da qui a dire che l'Inter adesso deve prendere i terzini e far giocare a Maraio, deve prendere i terzini a primavera, mi sembra vagamente eccessivo. Allora fermiamoci per il traffico in modo da parlare poi con calma con Filippo Maria Ricci, che è già in linea dalla Spagna. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Convocati. Già annunciato, lo saluto. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ciao. Allora, Cristiano Ronaldo ha vinto ieri sera il derby dei madridisti contro Bale. Bale ha fatto un grandissimo europeo, Cristiano Ronaldo così. Esatto. Questa è la sintesi, no? Mi pare inoppugnabile. Sì, adesso qua ovviamente già si parla di pallone d'oro, già assegnato praticamente. non mi sorprenderebbe affatto, anche perché o è l'una o è l'altra. sì, non abbiamo alternative, non lo so, un vero peccato però, ci dovrebbero essere delle alternative, però al momento non, vediamo se tra stasera e domenica un tedesco, un francese si inventa qualche diciamo qualcosa, però è così, insomma, no? Anche in questi giornali di Madrid sono molto forti, spingono, vanno, sì. Così, però non mi sembra nemmeno tanto corretto, se vogliamo, però al momento questa è la situazione, insomma, no? Ma è la nuova formula, Filippo, del pallone d'oro che lo rende, sì. Che lo rende assolutamente, esatto. Posso dirlo? Inutile. Abbastanza ridicolo, nel senso che o perlomeno ogni anno viene fatto un sondaggio su chi fra Cristiano Ronaldo e Messi è questa esatto. È la nuova forma, adesso si sta twitto, perché è un dato di fatto, cioè partendo dal presupposto che ci sono due giocatori in questo momento che vengono percepiti sempre e comunque sopra gli altri, e lo sono, oggettivamente sono come continuità, sono sopra Ibrahimovic, non so chi altro possiamo mettere, però ecco, per esempio Suarez quest'anno mi sembra che abbia fatto delle cose importanti, quindi potrebbe anche ambire a un posto lì sul podio. Anche Griezmann, no? Magari sì, dovesse vincere l'Europeo e essere magari capocannoniere. Ma no, anche Higuain credo che abbia fatto delle cose abbastanza importanti quest'anno. Quindi, per non parlare dei nostri tradizionali Fon o Bonucci. Detto questo, io penso che, quindi, siccome alla fine poi si riassume in un sondaggio fra quei due, Cristiano l'abbia già vinto, e devo dire che quest'anno si sta pure, perché ha vinto la Champions, è in finale dell'Europeo, cioè quest'anno paradossalmente, forse anche con i criteri del passato, quando si cercava di favorire ogni anno un nome diverso, c'era un criterio di votazione diverso, quest'anno forse Cristiano l'avrebbe vinto comunque, sì, per quello che ha fatto. Però prima si andava, negli anni delle grandi competizioni, si andava grosso modo a cercare il pallone d'oro nel vincitore del mondiale o dell'europeo, tendenzialmente. Sì, no? Esatto. Sì, esatto. Sì. Adesso poi si è allargata la Coppa America, e comunque uno come Arturo Vidal è andato in Germania, ha fatto il suo campionato, una semifinale di Champions, di nuovo un'altra Coppa America, per dire. Potrebbe accampare qualcosa, certamente, non è che ha avuto una brutta annata, diciamo. Comunque devo dire, è abbastanza impressionante, oggi ci pensavo, questo, visto che parliamo sempre di quei due, questo momento veramente sliding doors di distanza siderale fra i 21 mesi ovviamente poi bloccati con la condizionale, eccetera. Beh, però tra i 21 mesi di condanna per Messi e Cristiano Ronaldo, che insomma sta per vivere una delle notti più importanti, se non la più importante della sua vita, e intanto comunque quella finale l'ha centrata. Sì, sì, è proprio nello stesso giorno, spesso vanno così in parallelo i due, è bello anche questa cosa, se vogliamo noi alla fine che guardiamo da fuori, no? I due grandi campioni di questo secolo, e appunto nella stessa giornata uno raggiunge la finale, l'altro si becca una condanna che sì, sarà pure sospesa e tutto quanto, però 21 mesi non sono pochi, No, non sono uno scherzo. Adesso poi farà l'appello, adesso ci sarà una sentenza definitiva e vedremo come va a finire, però se dovessero a oggi ci sono questi 21 mesi, se per caso appunto c'è un'altra piccola infrazione, e qui col fisco sono molto seri e magari può anche arrivare da qui a 2 anni, e magari fanno un altro controllo e arriva un'altra piccola condanna, o anche un problema di traffico, qualsiasi, no? Lì vai dentro, perché la condizione non vale più. Anche se ti chiami Leo Messi, sì. Ascolta, Filippo, questo potrebbe spingere Messi lontano da Barcellona, perché vabbè, lasciamo stare quanto si legge oggi suo papà sullo yacht di Abramovic, eccetera, però effettivamente potrebbe essere, lasciamo stare queste cose, però potrebbe essere un fattore in grado di spingere Messi via da Barcellona? Sì, per me sì, perché guarda cosa è successo con Mascherano. Mascherano è arrivato vicino alla Juve, nasce tutto dai problemi fiscali. Le difficoltà di Neymar nel rinnovo nascono da lì, perché non si sapeva, la famiglia Neymar non sapeva per la fine quanto avrebbe dovuto pagare, e quindi si cercava delle altre sicurezze. Mascherano alla fine quello che chiedeva al Barcellona è che gli pagassero la multa, e poi comunque aveva anche lui un certo timore, lui ha una condanna da un anno, no? Che ha accettato, quindi non ha neanche fatto ricorso, ha accettato, ha pagato, però ecco, chiedeva al Barcellona di pagare la multa. Messi aveva versato 56 milioni nel 2014, adesso faccio un'altra multa da 2 milioni, insomma sono 58 milioni, va bene che ne guadagna tantini ogni anno, però insomma è chiaro che, diciamo, uno può anche cominciare a pensare che magari sì, si può anche cambiare, è tutto molto molto complicato, perché con quegli stipendi, quelle cifre, tutto quanto, diciamo, è quasi impossibile. Sì, però, come fosse il passaggio di proprietà di una squadra intera, voglio dire. Esatto, o due. O due. O tre, sì, dipende, insomma, però è chiaro che qualche riflessione verrà fatta e vediamo. Sì, ieri il Barcellona ha detto, ha mostrato il suo appoggio, però insomma, tanto la situazione è complessa, questo senz'altro. Sì. Grazie Filippo, a presto. A voi, ciao, prossime puntate. È un'ipotesi credibile, Pierluigi, secondo me. Io ci ho pensato subito, cioè al di là degli incontri sugli yacht. Sì. Però se c'è un momento è questo, e soprattutto in questo mercato in cui, dicevamo, le grandi squadre, salvo appunto le due spagnole, hanno cambiato allenatori e girano nomi e cifre da far paura. Oggi si parla di 120, un'offerta pronta per Pogba da 120 milioni da parte dello United di Mourinho. Se posso aggiungere una cosa, sì, meno, certo, un pochino più alta, se possibile, delle paure del fisco, Messi, cambiando aria, potrebbe anche mettersi alla prova e potrebbe, come abbiamo detto, diciamo, sì, smascherare, in qualche modo disinnescare quell'argomento polemico dei suoi detrattori, cioè sul fatto che è un giocatore che vince perché è una grande squadra, è fortissimo, perché no, perché è sempre una grande squadra, tanto è vero che in nazionale non, cioè è il grande tema di tutti quelli che lo amano poco. Ecco, io credo che un'esperienza fuori sarebbe un'esperienza nella quale lui potrebbe misurarsi. Io sinceramente per non sono mai stato curiosamente un grande calciatore, ma, e quindi non so mettermi nei panni di Messi, però sa, io fossi lui dopo tanti anni di la curiosità ce l'avrei, no? Lo, certo, stimo ce l'avrei, di dire, ma io voglio dimostrare che posso, proprio anche un concetto quasi di noia, no? Perché sì, comunque ha fatto tutto, ha vinto tutto a Barcellona, quindi una sfida, anche una sfida con se stesso, dopo aver accumulato centinaia di palloni d'oro, di titoli eccetera eccetera, andarsi a mettere alla prova da un'altra parte all'età che ha Messi, male, no? All'età, esatto, che ha Messi, potrebbe essere una grande soluzione. Il problema è che appunto lì si tratta di spostare un'azienda, non un giocatore, il che è difficile anche con i soldi che girano adesso in certi club. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao amico mio. Ci fermiamo per il giornale radio, ma poi torniamo insieme, 800 24 00 24, torneremo a parlare di tutti questi temi e di nuovo di mercato, di Bielsa, di Milan, di Montella, di tutte quello che volete. Ciao Parto, ti voglio bene. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Per la cronaca, è tempo di finali non solo per gli europei di calcio ma anche a Wimbledon, e allora vi dico che Serena Williams è in finale, ha strapazzato, ha distrutto la russa Vesnina in due set 6-2, 6-0, e Serenona viaggia verso la finale di Wimbledon. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Niente, volevo tornare sul discorso nazionale, completamente d'accordo con voi e con Pardo, però volevo fare solo un appunto su Insigne. Dopo la mancata convocazione di lui e di Berardi, sì, mi sembra che gli abbia tenuti fuori, secondo me Conte ha proprio impostato la squadra senza di lui e non ha neanche cercato di impostare la squadra con un giocatore più tecnico che potesse scardinare un po' la difesa, così. Secondo me Insigne è stato il classico giocatore che lo devi convocare perché ha fatto bene alla fine, la stampa te l'ha quasi imposto, anche se lui forse non era innamorato, e l'ha messo su 5 minuti alla fine quando uno è stanco, senza sfruttarne al massimo le proprie qualità del giocatore. Questo è abbastanza oggettivo, io credo, Roberto. Ma al di là di quell'episodio con Berardi, Insigne, che torna a casa, poi non viene convocato la volta dopo, Conte non è uno che si faccia, che si sottoponga di buon grado a tante pressioni. L'ha portato perché gli serviva come giocatore tattico. È vero che non ha impostato la squadra su di lui, è vero che ha usato un modulo nel quale Insigne faceva fatica ad inserirsi, se non appunto come giocatore tattico, come seconda punta. È vero anche che un po' tutti ce lo aspettavamo in campo un po' prima nella partita contro la Germania. Insigne, lo ripeto, è dal punto di vista offensivo è il più grande talento che abbiamo in Italia. Quindi lo vedremo certamente nella nazionale di Ventura. Certamente non era nei piani della nazionale di Conte, che aveva altre idee e altri progetti, cioè due giocatori che fossero disposti a correre e a giocare fisicamente come hanno fatto Pelé ed Eder. Fabio, buongiorno. Buon pomeriggio e grazie per la convocazione. Prego. Io volevo intervenire per la Premier League. Volevo collegarmi al discorso che avete fatto su Messi, sulla possibilità che possa andare al Chelsea. Ho osservato la presentazione di Guardiola. Mi è sembrato sì simpatico, però un po' preoccupato. Secondo voi non è che magari si è già pentito di essere andato lì in Inghilterra? Spiego perché. Guardiola vince praticamente da diversi anni tra Barcellona e Bayern Monaco ininterrottamente, e ha firmato per il Manchester City praticamente a gennaio. Ora si trova un campionato. Pronto? Sì, la sento, la sto ascoltando. Sì. Ora si ritrova in un campionato con Mourinho da una parte, quindi al United, Conte al Chelsea, Klopp al Liverpool, sì, che c'era già, però comunque è un grande allenatore. Sì. Con queste squadre che stanno intervenendo anche pesantemente sul mercato. Ma lo farà anche lui, Non è che sì, non starà a guardare. Però magari la concorrenza era un po' meno forte, secondo me, anche dal punto di vista tecnico, di guida tecnica. Vorrei sapere come l'ha pensato. No, io non credo. Io credo invece che per un allenatore top come Guardiola sia una grande sfida. Anche giocare in un campionato dove ci sono i migliori allenatori del mondo. Poi comunque è andato in un club che qualche soldino ce l'ha e che qualche soldino, vedrete, spenderà, e quindi tenderà ad accontentarlo in praticamente tutte le sue richieste. Non vedo perché dovrebbe essersi pentito di essere andato in uno dei club comunque più ambiti del panorama europeo, non fosse altro che per le grandi disponibilità economiche. Quindi non penso che Guardiola si sia pentito o che abbia, o men che meno che abbia paura del faccia a faccia, già stato peraltro con Mourinho o con Conte o con Klopp o con Ranieri o con chi volete voi, Pochettino, con tutti i grandi allenatori che ci saranno l'anno prossimo nel campionato inglese. Io saluto e ringrazio il direttore Pierpaolo Marino. Ciao. Ciao caro. Ciao direttore. Senti, posso farti fare un gioco con te? Posso farti fare il gioco che conosci come nessun altro, come pochissimi altri, cioè quello del direttore sportivo? Oh, con piacere. Posso? Allora, prima cosa, prendi un allenatore di grido e questo allenatore non arriva. O è un ritardo alla Maradona, che ben conosci, o c'è aria di pacco. Che cosa fai? Mi sto riferendo ovviamente nome e cognome e il logo Bielsa. Il problema sai qual è? Che la logica non porterebbe mai a prendere Bielsa, perché se viene detto il loco per quello che è il suo modo di fare in Sud America, il loco è anche sopportabile, perché io conosco bene e sono un estimatore dell'Argentina, del Sud America calcisticamente, però la leggera follia, una vena, fa parte di tutti quelli che stanno intorno al calcio. In questo si sprigiona per averlo chiamato loco lì, insomma. Sì. E allora sì, è bravissimo allenatore, però comunque si deve ambientare in Italia, deve pagare il suo scotto del noviziato come l'hanno pagato tutti, anche, e poi soprattutto ci vuole tempo per mettere in campo le idee come le ha Bielsa. E io non avrei corso il rischio per quell'altro lato che si è subito manifestato, perché uno che lascia la squadra a non allenarsi nel giorno del primo giorno del raduno, raduni insomma, tutti e non c'era l'allenatore. Somiglia al più caliente dei giocatori sudamericani che ho avuto io, un allenatore. Tanto che guarda, Pierpaolo, ieri abbiamo fatto un ritorno sulla domanda però che mi avevi fatto, voglio tu che fai? Devi prendere subito un altro. Prendere subito un altro, perché non lo recuperi più un rapporto che in partenza è così. Perché è già una prova di forza che lui ha fatto, no? Se tu ti sottometti, sei schiavo, è impossibile poi governare. Poi uno come Lotito che si sottomette lo vedo poco. Sì, insomma. Infatti ieri gli abbiamo fatto una telefonata, io e Pardo, gli abbiamo fatto una telefonata a sorpresa a Lotito. Te ne faccio riascoltare un pezzettino. È ufficiale, Bielsa, tutto a posto. Scusa, non è successo Bielsa? Pensiamo sempre alla storia di Bielsa. Bielsa rimanga tra me e te. No, guarda, è in diretta, la mia correttezza mi porta a dire... No, in diretta non te lo dico, perché te lo dico, ho fatto un comunicato, c'è un comunicato. Ok, vabbè. No, sai, io sono corretto, questa è Radio 24, quindi è un conto, una chiamata. C'è un comunicato ufficiale. Però lei è felice, insomma, è un passo importante. Sì, dico è un grande colpo, questo lo possiamo... Il comunicato dice che è stato già depositato il contratto, non certo oggi, e che c'è il comunicato ufficiale e che come da comunicato suo verrà sabato. Ok. Beh, ma è un grande allenatore, presidente. Stiamo dicendo che è un grande colpo. Vediamo che succede. Va bene? Capito? Vediamo che succede. Vediamo che succede, perché dall'altra parte c'hai un loco, insomma. Quindi il problema è che questa mossa di Lotito è solo la messa in mora per la futura causa. Chiaro, così si è tutelato legalmente. Infatti il comunicato l'ha fatto l'avvocato Gentile, che probabilmente tutelerà anche la Lazio in quella causa. Certo. Allora, è che ora lui non può ritornare da Prandelli. Questo è il problema. Infatti... Perché l'ha trattato male, perché Prandelli potrebbe essere anche con qualche ronzio alle orecchie dall'Inter. Sì, questa l'abbiamo sentita, e infatti poi ti faccio fare il direttore sportivo dell'Inter, ma prima quello del Napoli, ruolo che conosci molto bene. Allora, raduno della squadra, tifosi distaccati, c'è un certo scetticismo, c'è chi parla di stanchezza, di queste corse al secondo posto, ci sono un sacco di giocatori contattati che poi hanno rifiutato il trasferimento, che si fa? No, ma guarda, secondo me, io che conosco, penso forse anche più di De Laurentiis, Napoli, cioè il calcio Napoli, perché non mi riferisco alla città, che pure conosco bene, e dicevo, il primo giorno a Castelvolturno è un po' particolare, secondo me si è un po' esagerati nell'evidenziare l'assenza dei tifosi a Castelvolturno, anche perché i tifosi del Napoli ritengono il vero giorno in cui accogliere i giocatori quello del ritorno dopo il ritiro precampionato. Io ricordo una volta che alla partenza a Castelvolturno c'era pochissima gente, e poi quando tornammo facemmo un amichevole al San Paolo, arrivarono 40.000 con una C2. Cioè, quindi questo non è un test attendibile, questo dei tifosi a Castelvolturno. Poi mancavano tantissimi giocatori, però invece un po' di malcontento c'è, perché molto anche la casualità ha concorso a questo. Questo problema che il napoletano senta che un giocatore rifiuta di venire a Napoli non è una cosa che lo gratifica molto. E questo è il problema, sa dov'è? È che oggi bisogna avere prima la firma dell'agente del giocatore e poi andare dalle società, perché il Napoli si è ritrovato ad aver speso parole con i giocatori non fatti, e magari nel momento in cui ha chiuso col club si è ritrovato un interlocutore di traverso che l'ha fregato. Io però credo che siano molte casualità, non è che c'è una volontà generale di rifiutare il Napoli, perché un giocatore che va a Napoli è l'esperienza più bella della sua vita calcistica. Ma poi ormai il Napoli io lo considero un grande club europeo. Sempre in ambito Napoli, prenderesti Candreva o Herrera? Herrera, perché? Sì, perché lo conosco meglio di voi, è un giocatore No, io lo seguo da quando giocava nel Pachuca, il Messico, ora ha 26 anni, nella piena maturità, è un giocatore, che un centrocampista che ha tutte le fasi, si inserisce come Hamsik, recupera palla, geometria e qualità, è un giocatore veramente completo, non a caso è il capitano del Porto. Ed è un giocatore di livello da Champions League. Candreva è bravo, per l'amor di Dio, sicuramente, però si potrebbero prendere anche entrambi. Allora, adesso sei il plenipotenziario dei nuovi proprietari cinesi dell'Inter, del Suning. Mancini arriva e ti chiede Zabaleta e Touré. Cosa fa? Glieli prendi? No, per quella che è la mia idea di calcio, sono più dalla parte dei cinesi. Mi è piaciuta molto la loro conferenza stampa, sia quando si sono presentati con gli elementi che ai tifosi interisti erano più a cuore, stavano più a cuore nella comunicazione, cioè che avevano inserito 240 milioni nella società. Poi hanno detto il progetto, vogliamo giocatori, i più grandi talenti giovanili che ci sono in giro, e questo mi piace tantissimo, e questo però contrasta con la centralità e le idee di Mancini, che probabilmente anche quando c'era Doir, attraverso il suo estimatore numero uno che era Massimo Moratti, riusciva a determinare tutte le scelte, e ora c'è così un conflitto latente sulla leadership delle scelte della società. Però da manager, da vero dirigente calcistico che non ha mai fatto l'allenatore, quindi che non ha pensato mai di invadere altri campi, io dico che il concetto corretto è quello dei cinesi. Io sono d'accordo, ma ti aspetteresti a questo punto una frattura con Mancini, conoscendo il suo carattere? Aspetto, sì, perché Mancini è stato un grandissimo giocatore di grandissimo talento, e però non era solo un giocatore di talento, era anche un capo carismatico dello spogliatoio. Come allenatore ha fatto della sua bravura, capacità, ma anche della sua leadership sulle società, nelle campagne acquisti, il suo segreto vincente, quindi vedo difficile che possa ridimensionarsi Mancini. Fare un passo poi, per l'amor di Dio, tutto è possibile. Tutto può succedere. Un ultimo ruolo, Pierpaolo, quello del plenipotenziario invece dei nuovi proprietari cinesi del Milan. Da che parte si comincia? Ecco, l'hanno fatto loro, sono andati hanno mandato Galliani da Piazza. E questo è forte, perché a me ricorda l'Antognoni giovane, ha delle movenze che poi magari non ha ancora quella continuità, ma poi quando acquisisce continuità non lo prendi più con 25-30 milioni, ce ne vogliono 80-90, certo, e non lo prendi più. Quindi bisogna avere il coraggio, anche somiglia anche un po' a Kakà, quindi, però soprattutto Antognoni, quando si inseriva con quel suo stile di noccolato così, mi fa un giocatore che mi intriga molto, cioè, non a caso si interessano tutti. O lo prendi ora o no, in Italia non riesci a prenderlo più, a portarlo più. Sì, sarebbe un colpo da vecchio Milan, quello che andava a prendere i giocatori per poi valorizzarlo. Ho l'impressione comunque, l'ultima cosa che ti chiedo, che sarà il mercato più esplosivo di sempre. Come ho detto prima, ne parlavo prima con Pardo, perché? Perché la maggior parte dei grandi club, salvo Real e Barcellona, hanno cambiato allenatore. I cinesi sono entrati a Milano. Quindi i nuovi allenatori di Chelsea, Paris Saint-Germain, City, United ovviamente vorranno dei regali. Ancelotti ne ha già avuto uno con Renato Sanchez, pagato un sacco di soldi, ma mi sembra un grande talento. Io ho l'impressione che molti si muoveranno. Qualcuno parla addirittura di Messi, e anche questo è un discorso che facevamo prima, per la storia che è successa ieri in Spagna. Ne parlavo con Filippo Maradice, che mi dice potrebbe essere qualcosa che allontana Messi dal Barcellona. È possibile secondo te uno scenario di questo tipo? Non adesso, però nel tempo sì, secondo me, perché cioè il fatto che Abramovic soltanto lo incontri, il pensiero già è peccato in questi casi qui, no? Un giocatore che va da Abramovic, che va in gita con Abramovic a incontrarlo, e questo è già è come il tradimento col pensiero in amore, insomma. Quindi già può essere motivo di freddezza o di rottura futura. E niente, io sono pienamente d'accordo con te, arrivano capitali freschi, gli introiti dei diritti televisivi sono in aumento dappertutto. Idem il merchandising. Il calcio è l'unica azienda praticamente a livello globale europeo che non è in crisi, perché arrivano investitori, mettono capitali. Io la vedo come te, un mercato che appena finiti gli europei, quindi tra pochi giorni esploderà clamorosamente, ne vedremo delle belle, e io dico non solo nella seconda metà di luglio ma anche in tutto il mese di agosto. Sono d'accordo, ma soprattutto mi fido di un grande esperto come te, Pierpaolo. Grazie Pierpaolo, grazie direttore. A voi. Buon lavoro. Grazie di aver partecipato a questo gioco che mi è piaciuto moltissimo con Pierpaolo Marino. Adesso andiamo a Pieragusto Stagi e qui mi tocca fare la voce un po' più dolente. E ieri al Tour de France abbiamo perso per strada Nibali. Ciao Pieragusto. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Siamo tristi? 9 minuti per Nibali, già fuori classifica. Siamo tristi, se ti ricordi ieri ti avevo detto che sarebbe stata una tappa esplosiva, molto difficile, ma non ci si doveva aspettare niente da Vincenzo, perché d'altra parte o si ascoltano le parole della vigilia oppure si pensa che invece quando parlano gli atleti e ti dicono vado al tour per aiutare Aro, vado al tour per cercare la condizione, vado al tour per cominciare a mentalizzarmi in vista delle Olimpiadi, bisogna crederli, questo è quanto. Certo che poi da tifosi e da tifoso, come tu sai, non mi piace, se tu mi chiedi come valuti questa cosa, non mi piace che abbia preso 9 minuti, perché il mio campione è uno dei nostri corridori più forti e vorrei sempre che si ricordasse che rappresenta anche una storia, e la sua storia è una gran bella storia, e quindi non puoi calpestarla. Secondo me ha preso troppo, quindi ti dirò che i 9 minuti non mi piacciono, questo in ogni caso, però non mi aspettavo niente di più e niente di meno. D'altra parte, nei piani della vigilia, stando alle dichiarazioni cui si può credere oppure no, Nibali va al tour, è al tour per aiutare Fabio Aru. Poi tutti noi abbiamo detto sì, è lì per aiutarlo, però magari se ha la condizione qualche patto salta. Invece a questo punto è la classifica che parla e dovrà essere per forza così. È così, assolutamente così. Lui deve cercare di, a questo punto, di immagazzinare lavoro, cercare brillantezza e soprattutto sperare, e questo è l'augurio che da italiani ci facciamo proprio in prospettiva a Rio de Janeiro, che nell'ultima settimana faccia vedere di essere all'80-90% della condizione, perché sennò non riuscirà ad aiutare Fabio Aru, perché è lì che sarà necessario vedere e avere il miglior Nibali, esperto ma anche efficace, cioè deve avere le gambe forti, perché non serve, uno come lui può essere utile anche, diciamo, tatticamente nelle segrete stanze, nella guida occulta, però uno come Vincenzo è uno che condiziona la corsa e soprattutto fa la differenza quando si mette in testa, può essere un eccezionale, bellissimo, sublime ultimo uomo. Al momento non può esserne niente di tutto questo, al momento Vincenzo è in una fase che deve trovare il colpo di pedale, che al momento non c'è, deve trovare chiaramente la condizione. Ieri è stato alzato la bandiera bianca troppo presto, subito, immediatamente si stacca Peter Sagan e dopo circa 500 metri si è staccato lui, troppo presto secondo me. Io, come ti ho detto, voglio essere buono e quindi non ti dico era venuto qua per vincere il tour, perché è una bugia, non l'ha mai detto, io vengo a vincere il tour, e sarebbe anche quasi impossibile, però qualcosa di più in questa prima settimana mi aspettavo. E questa massiccia centrale gli risparà sullo stomaco parecchio. Per chiudere, come hai visto pedalare invece i grandi di questo tour, Aru compreso? Allora, io sto vedendo così, poi bisogna sempre, perché ci sono quelli che riescono a dissimulare la fatica, a nascondersi. A me sembra quello che sta pedalando meglio di tutti in Aero Quintana. Mi sembra un Quintana diverso da quello di un anno fa, molto più concreto, molto più attento, molto più aggressivo. Ho l'impressione che lui già da domani, comunque in questi 3 giorni di Pirenei che ci aspetta, vorrà fare qualcosa di importante per dare un segnale forte a Froome e soprattutto a se stesso. Froome, Sornione lì ha una buona squadra, non buonissima, perché ieri mi ha sorpreso ad esempio una pedina importante del Team Sky come Landa, si è staccato troppo presto, anche lui è saltato per aria come un birillo. Aru sta correndo molto molto bene, mi piace molto, e nonostante sia un neofita e sia un ragazzo al suo primo Tour de France, sta dimostrando tutto quel bene che noi abbiamo imparato. Grande personalità, grande personalità per Fabio, grande e credo personalità. Che abbia tutto per poter veramente arrivare molto in alto, e mi fermo lì, dico solo molto in alto, che sarebbe già abbastanza, anzi moltissimo. Grazie per Augusto Staggi, ci sentiamo domani. Ciao, grazie a te, ciao, un abbraccio. Grazie per Augusto Staggi, con cui chiudiamo questa puntata. Giorgio Druga, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Saluti.